del magnifico sistema a cui dà il nome. Magari per invidia rintuzza il suo gorgheggio e solo bladro. E spacca il sole, non lascia requie sotto la duna a martellate, e non accenna a rallentare il suo incedere radiante. E per converso la replica tardiva non tarda ad arrivare con botte di calore spumeggiante. Se fosse solo invidia sarebbe un vero sfregio, l'unico pregio. Fermati, stupida roccia, lasciami dormire però. Guardati, comincia la caccia, la candela si è spenta da un po'. Appiccare, infiammare, estinguere, smorzare, far cessare, attenuare, scatenare, fomentare, infuocare, stuzzicare, stimolare, placare, affievolire, soffocare. Siamo qui con Gloria Bartoli e Simone Menegoi, che avevamo già avuto in studio qualche tempo fa, in questa puntata naturalmente virtuale e da casa. E anche voi naturalmente siete a casa. Aspettate che prima li introduco. Simone è il direttore di Arte Fiera e Gloria è la vice direttrice. Tendenzialmente voi in questi giorni sareste stati in giro per il mondo, probabilmente a Hong Kong alla fiera, giusto? Forse non a Hong Kong, però sì, saremmo stati in giro, avremmo fatto già trasferta, insomma. Immagino. E invece tutti in casa? Sì. Cosa fanno dei direttori di una fiera? Innanzitutto presumo che vi siate sentiti abbastanza fortunati, nel senso che Arte Fiera è passata, è cominciata, è finita mentre il coronavirus era in Cina, diciamo, e adesso invece altre fiere stanno soffrendo molto più di voi. Fortunatissimi, cioè, se vogliamo dirla in modo formale. Certo, e dunque cosa fate di bello? Come gestite una fiera da casa? Come si gestisce una fiera d'arte da casa? Direi che siamo per più in modalità stand-by. Siamo attivi, un po' come tutti in questo momento, comprese le fiere, sulla rete, perché è l'unico ambito in cui realmente si riesce ad essere propositivi e attivi. Per il resto, sai, difficile, come dire, parlare di fiere, cioè in ultima analisi di investimenti con le gallerie in questo momento, chiuse e preoccupatissime per il loro futuro. Difficile parlare di investimenti con gli sponsor, che sono naturalmente aziende che hanno attività in campi diversissimi fra loro, ma che probabilmente tutti risentiranno di questa brutale interruzione delle attività. Quindi sì, cerchiamo di essere malgrado tutto attivi e propositivi, lo siamo sulla rete, abbiamo creato questa nuova rubrica che si chiama In Galleria, questo format che è un po' insolito perché di solito fra un'edizione e l'altra di una fiera i siti delle fiere non hanno iniziative dirette per le gallerie. Diciamo che una volta l'anno mettono online le domande di partecipazione per l'edizione successiva e questa è forse l'iniziativa principale, ripeto, nei confronti delle gallerie direttamente. In questo caso, vista la situazione, vista il desiderio comunque di essere attivi e dall'altro di dimostrare vicinanza ai nostri espositori, abbiamo chiesto a sei di loro alla volta, per una volta alla settimana, di mettere online dei materiali relativi alla mostra che hanno in questo momento in galleria e che naturalmente non è visitabile se non appunto virtualmente, oppure della mostra che si è appena conclusa, se non ne hanno nessuna installata, o addirittura se hanno delle preview dei materiali di quella a venire e che tutti speriamo possa aprire presto, ma che al momento non può senz'altro essere installata. Ecco, questo è il format di base di questa nuova. La nostra chiacchierata è perfetta oggi, che lunedì va in onda la nostra puntata, perché il martedì è il giorno che abbiamo scelto per In Galleria. È un'idea appunto che ci è venuta, diciamo, un po' a quattro mani, perché l'ultima settimana in cui appunto si poteva ancora uscire tra virgolette e non c'era la chiusura generale, con Simone si pensava di andare a fare delle visite in galleria, ovviamente partendo da Bologna ma poi spostandoci a Milano con il nostro solito Frecciarossa delle 9:30, ma per andare a salutare i galleristi, per chiedere come state, perché comunque il clima era già abbastanza acerbo, diciamo così, e poi però appunto il lunedì cos'è successo? Che è stato tutto chiuso, abbiamo detto noi volevamo andare da loro e troviamo un altro modo, perché in ogni caso possiamo guardare le loro mostre, e quindi è nata questa idea di, così come si sta in casa, si sta in galleria dai nostri espositori. È un'iniziativa fantastica, mi sembra. E come stanno reagendo i galleristi? Cioè, come a parte naturalmente la preoccupazione per il futuro, che presumo che questo unisca più o meno tutti, come hanno visto questa iniziativa? Ma direi molto, molto positivamente, sai, al di là dell'effetto benefico, chissà, perfino sulle vendite attuali o future, che può avere questa ulteriore esposizione online rispetto a quella che già le gallerie cercano di avere in questo momento, credo che abbiano apprezzato realmente il gesto. Ecco, l'idea che qualcuno pensi a loro in un momento in cui a tutto si pensa tranne che andare in galleria, insomma, o comprare opere d'arte. Questo credo sia passato e sia stato realmente apprezzato. Anche perché mi dicevate l'ultima volta che ci eravamo visti che verso inizio aprile, fine aprile, diciamo, i giochi più o meno per una fiera che è a gennaio sono fatti, mi sbaglio? Presumo che quest'anno non sarà così, no? Come mentre scappavamo su un taxi ti dicevamo ci risentiremo, ci rivedremo ad aprile per raccontarti le cose, quindi adesso la situazione è un po' diversa perché i taxi non corrono. Fuori ti raccontiamo cosa stiamo facendo adesso, ma intanto sì, comunque stiamo imbastendo la struttura e quindi non siamo fermi, insomma. Certo, tutto un po' più rallentato magari come comunicazione, però magari Simone puoi già raccontare qualcosa di quello a cui stiamo lavorando. Beh sì, nel senso, come diciamo, dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'impostazione, la prossima edizione, che è l'ultima del mio mandato, vorrei che fosse un'edizione di consolidamento. Nel senso che quest'anno, nel 2020, abbiamo lanciato molte novità. Le sezioni curate sono passate da una a tre, abbiamo presentato un comitato consultivo di collezionisti di alto profilo che ci affianca nel nostro pensiero strategico sulla fiera, sulle gallerie da coinvolgere, eccetera. Abbiamo continuato il rinnovamento del comitato di selezione. Insomma, come era logico, come anche ci si aspettava dalla nostra azione, abbiamo introdotto molte novità. Un'altra, abbastanza d'impatto, comunque la si voglia giudicare, è stato anche il cambio degli spazi. Siamo migrati in due nuovi padiglioni. Insomma, così tanta carne al fuoco che ci vuole tempo perché appunto arrivi a cottura, scusate se continuo la metafora, e quindi nella prossima edizione ribadiremo questi nuovi formati, cercheremo di far sì che la gente si familiarizzi, che il pubblico si familiarizzi con queste novità e possibilmente ci si affezioni. Quindi torneranno le tre sezioni curate, che sono Pittura 21, dedicata alla pittura contemporanea, Focus, questa piccola sezione che si propone come un ambito di eccellenza sull'arte del XX secolo, fotografia e immagini in movimento, che è stata la prima ad essere varata per la fotografia e il video, e tornerà, speriamo, insomma, almeno al momento ce lo auguriamo, il public program con tutti gli elementi che avevamo introdotto, cioè la mostra delle istituzioni, il programma di performance, eccetera. E a meno di, come dire, mutamenti a questo punto tellurici, saremo di nuovo negli spazi in cui eravamo l'anno scorso, magari con una disposizione diversa, dopo l'esperienza di quest'anno, con un pensiero diverso sui flussi dei visitatori, però insomma sì, rimarremo, credo, nei padiglioni che abbiamo inaugurato quest'anno. E sentite, scusate se mi ripeto, ma dove troviamo tutto il materiale che esce ogni martedì? Ma martedì a che ora? Pomeriggio? No? C'è un orario oppure al martedì? Diciamo, il segnale che tutto è online viene dato dai nostri canali social, quindi ci sarà la ripresa sia su Instagram che su Facebook del fatto che la pagina in galleria del nostro sito è rinnovata con 6 nuove gallerie appunto ogni settimana. Quindi state attenti agli avvisi, oppure se siete così curiosi controllate tutto il giorno, ma no, scherzo, intorno all'ora di pranzo escono i contenuti. E dunque intorno all'ora di pranzo andiamo tutti su www.artefiera.it, giusto? E andiamo a vedere che cosa ci propongono tutte queste gallerie. Io stamattina stavo sfogliando Art Forum, guardando appunto le date di inaugurazione di tutte queste mostre che probabilmente o non si sono inaugurate o si sono inaugurate ma sono chiuse, e alcune so anche già che non inaugureranno. Come la stanno prendendo, voi che siete in contatto con collezionisti e con gallerie, come la stanno prendendo questa cosa in giro per il mondo? Beh, insomma, i galleristi sono ovviamente molto preoccupati. I collezionisti un po' meno, presumo. I collezionisti in questo momento pensano alla loro salute, a quella dei loro cari. Certo. Nei casi migliori o peggiori, a seconda del punto di vista, che sono quelle, nel senso, nei gradi più alti di dipendenza dall'acquisto di opere d'arte, c'è veramente il prurito di non poter agire, quantomeno direttamente, visitando le gallerie, contrattando con i galleristi, eccetera. E qualcuno anche, come dire, si adopera online, non rimane neanche inattivo in questo momento, però ripeto, per lo più hanno altre preoccupazioni per la testa. Certo, sapendo che moltissimi galleristi usano Instagram proprio come strumento di commercio, io presumo che questo continui come se non ci fosse un domani, giusto? Da voi da che ne sapete, funziona così, si continua a lavorare? Ma direi proprio di sì, ma su questo magari Gloria, che è più attiva sui social, ha un'opinione più precisa. No, ci provano ovviamente, creano anche loro delle vetrine specialistiche, le stesse nostre gallerie che sono già state online la scorsa settimana, che hanno debuttato appunto per in galleria, stanno facendo anche dei video e delle stories appunto specifiche sui loro artisti. Ognuno prova a inventarsi, con rispetto ovviamente della situazione, un modo per essere presenti e per mantenere vivo il contatto. Insomma, in fondo anche la nostra iniziativa va un po' a ritagliarsi quello spazio. Stiamo saldi, stiamo focalizzati, siamo concentrati e vogliamoci bene, quindi volersi bene a livello commerciale e dare la possibilità agli altri anche di possibilità di mercato in qualche modo, anche se poi non è così, però per la visibilità è importante adesso che non ci può essere la fisicità. Gloria, Pensi che da tutto questo ne uscirà anche qualcosa di buono per le gallerie, per le fiere, per il sistema dell'arte in generale? Wow, che domandona! Difficile. Beh, ci sarà sicuramente c'è stato un pre-coronavirus e ci sarà un post-coronavirus, molto banalmente. Sì, dovranno ristudiare un attimo tutti i format, in fondo è una questione di format tutto il sistema, no? E magari si va un po' a scombussolare. Simone? Diciamo che dei cambiamenti ci saranno di sicuro e naturalmente a questo punto non includo neanche nella risposta alle ricadute economiche, i danni economici che ci saranno, prescindiamo da questo. Certo. Dei cambiamenti secondo me ci saranno nel mondo dell'arte come nel mondo in generale, nel senso che dobbiamo vedere quanto durerà questa quarantena, dobbiamo vedere quanto durerà la fase acuta della diffusione del virus, però è ragionevole pensare che certe modalità di lavoro, di rapporto, una volta sperimentate, potrebbero consolidarsi. Adesso potrebbe essere, banalmente, dico la cosa più stupida che tutti hanno pensato, una volta che sarà rotto il ghiaccio con la modalità di lavoro agile, potrebbe essere molto più diffuso di quanto lo è stato fino ad ora, per esempio. Se poi siano cambiamenti positivi o negativi, ecco, questa è una valutazione delicata da fare sicuramente su un tempo più lungo. Una domanda che hanno in mente molti in questo momento è appunto se anche l'esperienza a distanza sul web, sui social, dell'arte, delle opere d'arte avrà una ricaduta, addirittura sulla produzione artistica, sul modo di pensare l'arte e di creare da parte degli artisti. Però questa è una domanda davvero difficile, perché per fortuna l'arte risponde a delle logiche che non sono immediatamente prevedibili, che non sono quelle necessariamente, come dire, della statistica, e quindi quindi anche se l'arte è molto consapevole di quello che succede nel mondo, la sua reazione adesso per fortuna non è scontata, quindi potrebbe invece essere il contrario, non lo so, una prepotente rivalutazione dell'esperienza diretta delle opere. Infatti la mia domanda successiva era, che sarebbe stata anche l'ultima, era proprio questa. Secondo te cambierà il metodo di fruizione, anzi soprattutto pensando alle prove di fiere online che sono state fatte in passato e che di fatto si sono rivelate più o meno fallimentari, secondo voi il valore della fruizione diretta dell'opera d'arte cambierà? Appunto, questa è già una domanda diversa, perché prima avevo accennato alla posizione degli artisti. Quella di tutti gli altri del mondo dell'arte, dei critici, dei collezionisti, eccetera, chi lo sa, può darsi. Effettivamente, appunto, come tu stesso ricordavi, collezionisti e galleristi erano già attivi o iperattivi sui social, specialmente quelli image based come Instagram. Sì, beh, è ragionevole pensare che lo saranno ancora di più dopo questa esperienza, lo saranno ancora di più, però ecco, oppure che ci sia un ritorno paradossale alla fisicità tout court, cioè non è una reazione che non si può sapere adesso. Anche questo è possibile, perché poi quando finalmente sarà possibile uscire di casa tutti ne avremo una voglia dannata, avremo una voglia indiavolata e anzi di recuperare il piacere delle relazioni umane, perché ci stiamo nascondendo dietro computer in continuazione, quindi ci stiamo abituando a vestirci magari solo la parte alta e non il basso, perché dobbiamo stare di fronte a comprare il giornale. Esattamente, devo ammettere che tutti e tre siamo su Skype in mutande, vero? No, assolutamente no, io per tenere alto il morale io mi vesto ogni mattina come se dovessi uscire, ma dico di più, come dovessi fare impressione a qualcuno. Assolutamente, io mi trucco anche, invece in questi giorni sono tutta pronta, a cosa non si sa. Io pure ammetto di essere completamente vestito, ma questo perché tutte le mattine la prima cosa che faccio è portare fuori il cane. Molto bene. Io, cari miei, vi ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è finito e naturalmente ci vediamo tutti online sul sito di Artefiera, www.artefiera.it, e poi naturalmente vi invito, una volta finito tutto questo, a tornare in studio e a raccontarci come sta andando Artefiera 2021. Quando sarà possibile, con grande piacere. Molto volentieri. Bene, grazie mille di nuovo e a prestissimo. Grazie a te, Stefano. Ciao. Ciao. Coxo Spaziale. Yeah. Coxo Spaziale. Dunque, praticamente questo è un coxo spaziale di direttori, perché la seconda persona, anzi la terza, che sono andato a interpellare è il direttore del Mambo, che già la settimana scorsa si è raccontato questa iniziativa online per il Museo d'Arte Moderna di Bologna e anche questa settimana l'iniziativa continua. Dopo i direttori di Arte Fiera abbiamo il direttore del Mambo, ormai non so più dove quali mete scavalcare per l'ascesa dell'arte contemporanea dentro a Coxo Spaziale. Come stai, Lorenzo? Lorenzo Balbi, naturalmente. Ciao Stefano, grazie dell'invito. Sì, la puntata dei direttori mi piace moltissimo. Esatto, facciamo una puntata dei direttori online. Come sta andando la tua reclusione? Benissimo, nonostante due bambine treenni in casa, però devo dire che è anche un modo per rallentare molto i ritmi e riuscire a fare altre cose che di solito non si riescono a fare. La scorsa puntata ho preso, anziché disturbati, ho preso direttamente il tuo video sui 2 minuti di Mambo e l'ho cacciato dentro alla puntata così com'era, e stavolta invece ti importuno a voce. Come stanno andando i 2 minuti di Mambo? Ma stanno andando molto bene e abbiamo veramente dei feedback interessanti e più che altro vedo che stiamo raggiungendo anche dei pubblici, soprattutto con il feedback e con i post sotto tutti i nostri contenuti. Stiamo riuscendo a raggiungere del pubblico che magari non conosceva il Mambo, non conosceva le nostre attività, non aveva visto le nostre mostre e che in qualche modo con questa modalità riusciamo ad ingaggiare. E le mostre cosa succede? In questo momento è tutto chiuso, tutta Bologna Musei è tutto chiuso, giusto? Sì, la genesi un po' la conosciamo, diciamo così. C'è stata una prima settimana di chiusura voluta, adesso siamo diventati tutti esperti di queste sigle, nel primo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le cose che sono state chiuse, le istituzioni o comunque i luoghi aperti al pubblico, i primi a chiudere, c'è stata questa settimana in cui i musei sono stati chiusi. Ti ricorderai la polemica, musei chiusi, biblioteche aperte, c'era stato un po' di polemica. Durante quella prima settimana sembrava fossero veramente solo pochi giorni di chiusura per poi riaprire, e quindi abbiamo fatto un esperimento. Devo dire che l'ideatore in primis di questo esperimento è stato il nostro presidente Roberto Grandi, che ha deciso, perché non proviamo a mettere uno sguardo, diciamo aprire un occhio, aprire una finestra su una delle opere principali della mostra in corso attraverso uno streaming. Noi in corso al Mambo attualmente abbiamo una mostra che si intitola Again and Again and Again End, sul tema della ciclicità del tempo, che sembra quasi profetica in questo momento in cui tutti viviamo i nostri loop quotidiani e continui. E questa mostra ha un'opera centrale, principale, che è una grandissima installazione performance, una grande installazione che riproduce un villaggio francese degli anni 50, dentro la quale si muovono due attori, un uomo e una donna, che in una routine, diciamo in un loop che dura 3 minuti e mezzo circa, si incontrano, si scambiano un saluto, forse si innamorano e tutto ciò finisce e ricomincia ogni 3 minuti. Ecco, questa routine, questo loop è stato mandato per una settimana, 2 ore al giorno, in streaming diretta dalla Sala delle Ciminiere sui canali online del museo, e devo dire che ha suscitato molto interesse e anche molta partecipazione, perché era un po' un modo nuovo anche per fruire di un'opera. Ovviamente sappiamo che era un esperimento ed era una visione parziale dell'opera, ma pensavamo di poter riaprire il museo di lì a poco, e quindi è stato anche da parte dell'artista veramente un cercare di coprire un vuoto, diciamo così, di aprire un museo anche in un momento in cui la possibilità fisica di fruire gli spazi non c'era, e dando comunque una visione alternativa a un'opera che di solito viene fruita in un altro modo, anche se ovviamente parziale. Quindi dopo questa settimana lo streaming è terminato, il museo ha riaperto come tutti i musei d'Italia per una settimana, dopodiché è arrivata la serrata generale, e adesso appunto sono 2 settimane che siamo chiusi, che i nostri spazi non possono aprire al pubblico, e che anche qui noi siamo, tutto il personale del museo è in telelavoro, e quindi gioco forza, l'unico spazio espositivo aperto del museo sono le piattaforme online, quindi dal nostro sito fino alle pagine sui vari social o il canale YouTube eccetera. E per cercare un po' di andare incontro anche alla volontà di mantenere un'attività, ieri io scrivevo di questo fatto perché leggo che ci sono anche molte critiche su quanto i musei stanno facendo online, eccetera. Bisogna sempre anche pensare che i musei sono fatti di persone che sono abituate a lavorare tutti i giorni sulla proposta, sulla composizione di contenuti, e che in questo momento si trovano a casa, si trovano con i luoghi in cui lavorano chiusi, inaccessibili, e hanno bisogno in qualche modo di sentirsi attivi, partecipi, poter continuare anche questa attività. E quindi un po' verso l'esterno, un po' verso l'esterno, verso l'interno abbiamo varato questa format, questa nuova formula, diciamo, che si intitola Due minuti di mambo e che prevede che ogni giorno, simbolicamente dal martedì alla domenica, quindi giorni di apertura del museo canonici, alle 15 viene caricato un brevissimo video, quindi cercando anche noi di sperimentare dei formati che usualmente i noiosi e lunghi musei non hanno, un video di 2-3 minuti, quindi una lunghezza, siamo alla radio, no? Alla lunghezza, sì, no, radiofonica. Infatti, esatto, questa lunghezza radiofonica devo dire che io l'apprezzo molto proprio per la volontà che il Mambo ha di ampliare il suo pubblico. Sì, è un po' il concetto, guarda, ovviamente la suggestione parte anche dal nome del museo, questo nome musicale, insomma, certo. Mambo, e quindi l'idea era di darci dei vincoli, e i vincoli, viste le piattaforme su cui ci proponiamo, deve essere anche quello di utilizzare linguaggi e lunghezze che siano fruibili su queste piattaforme, quindi lo sforzo che stiamo facendo e stiamo chiedendo anche a tutti coloro che ci mandano i video di fare è di stare nei 2-3 minuti e mezzo massimo, quindi la lunghezza canonica di una canzone, con l'effetto proprio anche della curiosità e della leggerezza con cui alla radio ascoltiamo le canzoni. Quindi penso che se alla radio, mentre sono in macchina, ascolto, o sono a casa in questi giorni e sto cucinando, ascolto 2 minuti e mezzo di una canzone di cui magari non conosco l'autore, non conosco la melodia, ma in qualche modo mi attira il contenuto, mi attira la musicità, perché no, un contenuto su un'opera di un artista o 2 minuti e mezzo di riflessione su un particolare aspetto relativo a una mostra, a una suggestione che deriva da un'opera, non possa interessarmi e poi appunto io possa andare a cercare qualcosa di più o andare sulle pagine web del museo per capire da dove arrivava questa cosa, così come se mi piace una musica della tua radio posso andare a cercare chi era l'autore e sentirmi altri pezzi. Esatto, anche perché naturalmente le canzoni che tu ascolterai su Radio Città Fujiko adesso, grazie a Shazam, sono rintracciabili, anche le più astruse, devo dire. Ma andiamo adesso, è tutto molto bello e anzi mi fa molto piacere comunque sentire questa freschezza e vitalità da parte di un museo come il vostro. Ma invece le implicazioni di questa crisi, quale secondo te, quale saranno per un museo come il Mambo? Fuori da retorica, io penso che nulla sarà come prima, insomma, è una cosa banale quella che dico, però è anche la realtà dei fatti. E più prima entriamo nell'ordine delle idee che quando finalmente usciremo da questa emergenza potremo ricominciare a lavorare propriamente negli spazi deputati per il nostro lavoro, prima capiamo che dovremo azzerare tutto quanto avevamo in mente e ripartire con una nuova consapevolezza, che non è solo una consapevolezza economica, che Gioco Forza sarà la prima presa di consapevolezza di cui avremo bisogno per ripartire e riprogrammare, ma è anche una presa di consapevolezza di come sono cambiate e come cambieranno le relazioni tra le persone, le relazioni tra le persone e lo spazio. E questo è fondamentale per noi che ci occupiamo comunque di luoghi di aggregazione, di stabilire con il lavoro degli artisti anche una modalità di fisica, di presenza delle persone in uno spazio. Questo sicuramente, questa consapevolezza sarà il punto di partenza per lo sviluppo di nuove progettualità. Quindi io credo che più che fasciarci la testa dovremo cominciare e disperarci per il fatto che ovviamente quando ritorneremo a lavorare la situazione Gioco Forza, sia economica che anche di fruizione, sicuro bisognerà recuperare anche una certa fiducia delle persone nel frequentare spazi con altre persone, di frequentare eventi che prevedono la vicinanza, eccetera. Tutto questo andrà recuperato con una consapevolezza che questa crisi cambierà per sempre il nostro modo di stare insieme, di relazionarsi con le altre persone. Anche perché comunque la fruizione dell'opera sa da fare dal vivo, adesso magari per alcune opere non è proprio così, penso magari alla videoarte, però obiettivamente come si fa a fruire un'opera senza esserci davanti? Tutte le opere vanno vanno fruite dal vivo o comunque vanno fruite nella modalità di fruizione che l'artista ha designato per quelle opere, anche la videoarte. È vero che possiamo dare degli sguardi, possiamo dire vi offriamo la possibilità in questo momento di avere delle immagini di supporto al vostro pensiero, ma l'opera è tutt'altra cosa. Io so benissimo che lo streaming dell'opera di Ragnar Kjartansson non era l'opera di Ragnar Kjartansson, così come caricare un video d'artista online non è vedere quel video, ma è quanto in questo momento si può fare per continuare a divulgare, continuare a tenere viva l'attenzione sui nostri temi, magari cercare di dare dei contributi attraverso l'arte alla consapevolezza di quella situazione in cui ci troviamo tutti quanti, che ci siamo venuti a trovare. Però, come dici te, e questa è assolutamente una cosa fondamentale, i musei sono dei luoghi. I musei sono dei luoghi fisici, con delle stanze, con delle opere dentro, con dei rapporti di prossimità, e il loro lavoro è anche quello di portare pubblici diversi, persone diverse, il maggior numero di persone dentro i loro spazi a frequentare le loro opere, a porsi di fronte alle suggestioni che quel museo suscita. E questo è importantissimo. Spesso i musei vengono criticati perché utilizzano l'online solo per mera comunicazione dei temi che sviluppano dal vivo, ma questo è anche comprensibile pensando che i musei hanno come obiettivo quello di rendere vivi, fruibili e attenti, attivi degli spazi che sono luoghi fisici con un indirizzo dove ci sono delle entrate in cui si spera che la gente entri e fruisca di questi contenuti. Per cui io non lo trovo scandaloso che i musei si siano adesso riversati online e poi, anticipo le critiche, ritorneranno nei loro spazi e finiranno oppure attenueranno la loro presenza online, perché i musei hanno come primo e principale scopo quello di invitare la gente a fruire dei loro spazi e fruire di quello che tu dicevi, della presenza fisica davanti all'opera d'arte. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo a raccontarci anche le difficoltà appunto di un museo di fronte a una crisi come questa, e naturalmente, come ho fatto con Simone e Gloria, ti inviterò di nuovo, spero di invitarti quanto prima negli studi di Radio Città Fujiko, che come forse non saprai sono completamente chiusi, per rivederci fisicamente. Adesso magari non ci daremo la mano, ma si spera che ci si possa vedere dal vivo e naturalmente speriamo di poter fruire anche della mostra del Mambo dal vivo, anche perché a me mancano un paio di video che non ho avuto il tempo di guardare all'inaugurazione, per cui ma presumo che la mostra stia su per un altro bel po', giusto? Ma anche questa cosa è assolutamente da valutare. Ovviamente la mostra aveva una data di chiusura che era il 3 di maggio, che difficilmente sarà quella definitiva. Stiamo ovviamente già ragionando su delle proroghe, però ovviamente questo scatena anche un discorso di budget e di previsione dei costi, che al momento è assai difficile ponderare, per cui la nostra ferma intenzione è ovviamente quella di mantenere questa mostra, che tra l'altro stava andando decisamente bene, aveva suscitato molto interesse nel pubblico e anche i numeri dei biglietti staccati erano notevolissimi, e purtroppo sicuramente questa situazione non gioverà neanche poi dovendola riaprire, però cercheremo di tenerla ancora su. Io ti ringrazio moltissimo e spero di vederti in studio su Radio Città Fujiko quanto prima. Grazie a te Stefano, spero anch'io di venire di nuovo ospite da te presto. Benissimo, grazie mille. Ciao. Ciao. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. Non sappiamo cosa dire. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Cox spaziale. E dunque questi sono tempi difficili, ma non bisogna neanche deprimersi, insomma, non bisogna mollare. Cerchiamo di continuare a lavorare creativamente, come, come appunto artisti e promotori dell'arte contemporanea stanno facendo, e nello stesso tempo aspettiamo, anche perché c'è poco altro da fare. Sono Paolo Rassei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Carol from outer space. E anche questa puntata di Coxo Spaziale finisce qui. Ringraziamo Fedra che dai boschi ci starà ascoltando. Ringraziamo Giffo che da Vicenza non ci può messaggiare, almeno dal vivo. Ringraziamo naturalmente Lorenzo Balbi che ci ha parlato, a Simone Menegoi e Gloria Bartoli che ci hanno raccontato cosa succede online ai musei e alle fiere d'arte contemporanea. E naturalmente io vi do appuntamento come al solito sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM e sempre online su www.radiocittafujiko.it a lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre con Coxo Spaziale. Io ero Stefano W. Pasquini e ci vediamo la settimana prossima. Naturalmente vi lascio sempre con le solite, ormai è un gadget che non può mancare, le solite parole del nostro direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Sure, I get my rewards in time. Backing up the street with the smell of sweet sensation. Didn't want to be another dime. Hidden in the pocket of some unfortunate nation. Didn't have no money, sure didn't have the time. Unfortunate thing, such an unfortunate thing. Unfortunate thing, such an unfortunate thing. But I fought with nothing. But I fought with nothing, nothing, nothing. Laughing at the rumor that you've been screwing someone. Oh, laugh that I cried, could be a turn next time. Brother, what a lover beyond the fourth dimension. He's got an ego that's bigger than yours and mine. Unfortunate thing, such an unfortunate thing. Unfortunate thing. Such an unfortunate thing. But I fought with nothing. But I fought with nothing, nothing, nothing. Don't call me Buona. Let it settle in your heart. Move from children into business counterparts. Your head was shaking as I walked into the room. A spirit breaking. That's why I feel this way. That's why I feel this way. That's why I feel this way. That's why I cry. That's why I feel this way. Ba-da-ba-ba. Na-na-na-na-na-na. Ba-da-ba-ba. really fooling no one. I was sure I'd get my reward in time. Backing up the street with a smell of sweet sensation. Didn't want to be another dime. Unfortunate thing, such an unfortunate thing. Unfortunate thing, such an unfortunate thing. But I fought with nothing. But I fought with nothing, nothing, nothing. Unfortunate thing.